Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squappi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 53esima puntata di Fuoco alle Polveri. Il mic fa scherzi. Buonasera, Bricobaldo. Ciao Bricobaldo. Cap Cav e Grande Drago. Hola, ciao Mario. Qui con noi Mario. Ciao amici. E naturalmente Tuco, l'avete sentito. Eccomi qua come tutti i lunedì, o quasi. Allora, 54. 54 come cosa? 54 come i quadratini del cubo di Rubik. Il cubo di Rubik è composto da 54 quadratini. Pensate. L'hai mai finito? Io no. Ma secondo me Mario sì. Mario, l'hai finito? Io da piccino, siccome non mi riusciva, mettevo il culo del cucchiaio. Funziona così il cubo di Rubik. Ho capito che c'ha il perno centrale, sì, di un colore fisso, e quelli accanto che li puoi girare, sì. E in sostanza sono due croci incrociate. Quando volevo finire il culo di Rubik, quando volevo finire il cubo, infilavo il culo del cucchiaio, toglievo tutti i pezzi, certo, rimanevano quelli centrali e li puoi rimontare. E ricomponevi, va bene, sì, anch'io ho barato. Dal mio punto di vista è un metodo questo. Io staccavo invece gli adesivi, i colori. Ah, buono, quello. Però aveva una resa, insomma, dopo due o tre volte facevi così, esatto. poi diventava il cubo tutto nero. Esatto. Non sottovaluterei il pennarello nel caso. No. Da Radio Wombat un sacco di proposte per risolvere, per i nostri matematici. Esatto, e in pochi secondi, peraltro, record mondiali. Allora, mi sa che non lo batti lo stesso il record, sono velocissimi quelli, hai visto come fanno? Io ho visto i video, sono ragazzini. Ma c'è anche qui nella nostra città, a volte per strada ho beccato ragazzi con il timer che fanno Ah, ma c'è anche il nostro grande ascoltatore Giacomino, che è comunque un campioncino di Rubik, di cubo di Rubik. Pensa a te. Ciao Giacomino. Bravo. Ciao. Allora, oggi puntata comunque ricca, come sempre. Parliamo in apertura di puntata delle a due giorni che avevamo raccontato e pubblicizzato settimana scorsa di Ribellarti, diciamo, quindi legata al collettivo Ribellarti, dedicata a tutte le arti, in particolar modo di strada, ma anche poesie, e chi più ne ha più ne metta. E infatti ora ne parleremo con alcuni estratti che provengono appunto da queste due giorni. Allora, cosa Mario, tu che sei stato un po' il fautore di queste, no? Queste interviste, no? Non le fate te? Sì, ci saranno, ma forse ne parliamo mentre le mandiamo? O le parliamo? Sì, comunque sì, ci saranno anche due tavoli integralmente reperibili su Radio Wombat, sono quelli che si sono svolti ieri l'altro all'occupazione di Viale Corsica, ieri a quella di Viale Corsica, all'occupazione polveriera e ieri a quella di Viale Corsica. Ok. Ne ha due giorni di viola. Il primo tavolo era le nuove forme di produzione e riproduzione artistica, che si è svolto in polveriera, è stato un tavolo molto lungo, è durato 3 ore. E il giorno dopo invece era sulla repressione nell'arte in Viale Corsica. Ospiti diverse, varie partecipazioni, e l'Assemblea Ribellarti, il collettivo milanese Viola, diversi artisti, critici. E tutto questo comunque sarà reperibile a partire da domani sul sito della radio. Tutti e due i tavoli li metteremo lì, si potranno riascoltare. Nella sezione speciali andrà a finire il decidiamolo podcast. Adesso. Decidiamolo adesso. Diciamo di sì, direi speciali, di sì. Si sta bene, dai. Aggiudicato. È fatta apposta. Comunque, oltre a parlare insomma di questi due giorni di Ribellarti, avremo sempre le altre rubriche. Certo, assolutamente. Ritornano in punta di pedali. Abbiamo una nuova puntata di Nozioni Inutili, grande ritorno. Urlo dei Balcani, sempre assolutamente bello. Sul pezzo. E un grande speciale di una delle rubriche più spumeggianti, ovvero Maldonado. Maldonado che nonostante la pausa invernale della Formula 1, Maldonado non si guarda in bocca. E forse una sorpresina, una rubrica in chiave un po' diversa, vediamo insomma quella, non l'annunciamo perché vediamo se rientra. Perfetto, quindi lo scopriremo in corso d'opera. Partiamo con un pezzo? Partiamo sì. Con un pezzo, vai. Bene, Kenny Arcana, La vita artista. Uè. Wombat. Pour moi, vos caméras, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Tu te rappelles, petite sauvage, toujours entourée de fauves. Belle étoile, livrée à nous-mêmes, pointée du doigt, mais enfant d'une force. Dis, tu te rappelles, même sans réenfance, la chance sourit à l'audace. Même alors, pour choisir ta pente, on parle les prêcheurs du blasphème. Les petits teigneux ne se rendent pas. Oui, j'ai osé dire non, je les écouterai quand ils parleront d'humanité avant de parler de millions. Sous les néons, oui, j'ai rêvé de m'en sortir. Mais comment guérir de la pénombre quand celle du monde est encore pire? Alors je lutte contre mes démons, sorti de mes années, sorti de mon âge. Je connais pas la vie d'artiste, ma vie entière, c'est du hors-piste à avancer dans le désert ou posticher sur ma dune. À mater la pente abrupte entre le ciment et la lune. Oui, pour marcher dans la lumière, j'attends pas que les spots s'allument. C'est au nom de l'enfant d'hier que mon insolence vous salue. Je m'accorde de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or, pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas d'avocat casse qui nous casse, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Je m'accorde de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or, pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas d'avocat casse qui nous casse, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Pour moi, tous vos trophées, je suis celle qu'on condamnait au pire. Tête rêve atrophié, tout votre système m'a fait vomir. Vos rêves de stars ne sont pas miens. Comment pourriez-vous me comprendre? Je confonds pas le but avec le moyen. Et je vois bien que le monde tremble. Tu te rappelles de nos promesses? Tu te rappelles, le temps les a-t-elle emportées? L'eau a coulé sous les ponts et depuis qui en arbitraire, loin des hommes, loin du cœur, même près des yeux. Justicier de pacotille, ici des hommes se prennent pour Dieu. Tu te rappelles, issu d'une jeunesse furieuse, petite, éternelle, fugueuse et prise de liberté. Je m'en tape de faire du buzz. Je suis l'artiste de personne. Je suis la plume de mon âme qui était là quand petite fille domiciliée sur le macadam. Personne, monde de chien, je rentrerai plus dans sa cabane. Anti-système et je fais du rap, oui, je représente ton amalgame. Adolescent sous les étoiles, où l'Odyssée est une cavalcade. J'en garde des traces et j'oublie pas combien l'homme peut être un bâtard. Rien à carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or, pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas d'un bon casque qui nous casse, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Rien à carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or, pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas d'un bon casque qui nous casse, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Petite, c'est pas pour moi, à part me faire péter les plombs. Qu'est-ce que je fous là? Et en même temps, je peux pas maintenant jeter l'éponge. Tiraillé depuis longtemps, l'idéal maintenu sous les ponts. Petit pion du matraquage, j'aime prendre le public pour des cons. J'ai fui la musique, non, je ne suis pas un produit. Sans télé ni radio, on me disait que ce serait impossible. Artiste sincère pour gens sincères, où on a retourné leur schéma. Quand tout se disait qu'il fallait se plier ou que ça ne marcherait pas. Faut que tes dires, faut que tes normes, faut que toutes tes barrières. Si ça marchait, les gens qui porteront ma zique de toutes les manières. J'ai fait mes armes dans l'ombre, j'vois rien à dégâts. Oui, j'ai roulé ma bosse, j'ai pas fait la hesse, j'ai pas de grand frère. Et je suis là sans avoir clashé personne. J'ai pas renié un seul de mes principes. Tu peux parler, mais si mon cœur était mon fond de commerce, t'aurais sorti un album par année. Si j'ai failli tout plaquer, c'est qui si je me sens à l'étroit? Difficile d'imaginer le poids, alors j'écris à la belle étoile. Rien à carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or, pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas d'un bon casque qui nous casse, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or, pourtant captif comme toi, gosse de Babylone. Mais pas d'un bon casque qui nous casse, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Capitano! Capitano! Che c'è? Onde altissime dritte di prua! Non hai visto male! Oh no! Ha ragione, capitano! Sono onde medie! We want the airways back. Due giorni su Radio Frequenze Liberate. Sabato 3 marzo al Next Emerson dalle 22.30 con i CCC, CNC, NCN. Domenica 4 marzo, polveriera spazio comune, dalle 15, workshop e dibattiti sulle radio pirata e le frequenze libere. Il programma completo su www.wombat.noblogs.org. Rieccoci qua. Avete sentito l'evento 3-4 marzo, assolutamente imperdibile. Grande lancio della radio sulle frequenze AM. Radio Wombat. Ispira questa musica sotto. Allora, eccoci qua. Vi accennavamo prima, appunto, il primo intervento e il primo contributo che ci arriva da questa due giorni. Vero Mario? Sì, la possiamo magari direttamente sentire, che comunque si spiega da sé. È la voce di Frode, lo street artist che fra l'altro ha lasciato anche un pezzo in polveriera per chi lo volesse vedere, e che è anche un avvocato, uno dei più attivi a Milano sull'arte di strada. Sì, e che fra l'altro sta seguendo alcuni casi particolarmente interessanti a livello nazionale, come il caso del writer che sta rischiando di finire in carcere. Ce ne parla comunque lui, è molto interessante. Questo è un estratto dal tavolo che durava un paio d'ore, ma che comunque, come dicevo, infatti si potrà ritrovare da domani sul sito della radio integralmente. Questo è l'estratto, il suo contributo. A quello stesso tavolo partecipavano alcuni artisti, un'altra avvocatessa di Milano, e dai nostri amici di Radio Onda d'Urto c'era Andrea Cegna. Si è parlato di questo, e in particolare questi sono un po' di alcune testimonianze e dei consigli che lui dà ai writer. Durano una decina di minuti, è un estratto da quell'intervista, ascoltiamolo. Evviva! Ciao a tutti, non so se ci conosciamo, penso di no. Io unisco due esperienze, nel senso che sono writer, street artist, quello che volete, dal 92, e invece faccio l'avvocato dal 2008 e mi sono occupato fin dall'inizio di difendere i miei colleghi writers, anche perché sono stato uno dei primi che è stato fermato da questo nucleo decoro urbano che è stato istituito a Milano, e quindi l'esperienza la conosco abbastanza direttamente, ecco, visto anche come sono cambiati gli strumenti di indagine nel tempo e come anche la mentalità giudiziaria proprio da parte dei giudici e di chi lavora nei tribunali come noi ha avuto modo di approcciare, modificando anche proprio schemi mentali che sono cambiati. Abbiamo visto, cioè, senza entrare nei discorsi troppo generici, però la street art come si è evoluta negli ultimi anni, come è arrivata a tutti, e quindi è arrivata anche a casa dei giudici e delle persone che si occupano di tematiche di legge. Sicuramente il nucleo del coro urbano a Milano ha fatto un tipo di lavoro che non era mai stato fatto, almeno in Italia. Per quanto ne so, a Bristol era già avvenuto un bel po' di tempo prima, cioè erano state istituite delle squadre che si occupavano quasi prevalentemente di reprimere il fenomeno del graffitismo, quindi seguivano, non avevano i mezzi di oggi, quindi non ti sequestravano il cellulare, trovavano tutte le foto dei tuoi lavori e dopodiché ti intercettavano su Facebook e cercavano di capire i tuoi movimenti, poi ti geolocalizzano e incrociano i dati per costruire prove a livello di processo. Però seguivano i writers, tentavano con i vecchi strumenti alla 007 di trovarti, e li entravano in casa, li sequestravano le bombolette, li facevano processi e li condannavano per parecchie parecchie sterline di risarcimento danni. Successivamente a quell'esperienza, da noi invece è arrivata successivamente, e in modo permeante, perché questi qua cosa fanno? Girano la città, vedono le firme, dicono: toh, frode mi dà abbastanza fastidio perché l'ho visto qua, la. Poi ci sono due denunce in cui lui ha imbrattato quel vagone, quel palazzo, quindi lo cerchiamo. Iniziano da Facebook, cercano frode su Facebook e vedono se riesce qualcuno. Gli usciranno 200.000 risultati, perché frode poi ho scoperto che era anche un nome diffuso al nord Europa come primo nome, però magari a Milano non ce ne saranno tanti, magari gliene escono due o tre, ti seguono per un po' di tempo sui social fino a che tu non ti fai sgamare automaticamente da solo con qualche foto che posti, e non c'è bisogno che loro chiedano l'autorizzazione a Facebook di entrare, anche perché questa non è facile da avere, la sede in California di Facebook, e le autorizzazioni che violano in modo così evidente la privacy, anche se sotto un profilo di autorizzazione da parte della magistratura, non vengono concesse da Facebook, quindi loro non ci pensano nemmeno a chiederle. Ti seguono su Facebook, quando sono più o meno sicuri quale tu possa essere, vanno all'anagrafica e incrociano dati, dicono quanti ragazzi ci possono essere di più o meno di questa età che abitano in questa zona di Milano, che corrispondono a quel dato che è uscito, quella data in cui lui ha postato tanti auguri di compleanno, per esempio, quindi assodano che tu sei nato in quella data, incrociano e arrivano a casa tua. Così è successo al primo writer, che magari avete sentito che sarà il primo writer che dovrà entrare in carcere, poi non si sa se entrerà veramente, perché questo è un titolone anche che è stato messo dai giornali, che però sto difendendo, è un ragazzo che ha fatto parecchi danni a Milano, che ha delle sentenze passate in giudicato e altri sei processi che verranno definiti, e in tutte queste casistiche ha ricevuto delle condanne abbastanza importanti. L'ultima è quella di sei mesi e dieci giorni, però c'è una precedente da un anno e due mesi che adesso è in Cassazione, poi ce n'è una da un anno e otto mesi che ho appellato, insomma, mettendole tutte insieme viene un bel pacchetto, e sarà difficile che riesca ad evitare concretamente perlomeno di entrare, se rientra in Italia, perché se lo fermano all'aeroporto banalmente lo prendono, portano dentro. Poi bisognerà vedere quante pene ha accumulato, se siamo nei limiti per chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali o comunque perlomeno la detenzione domiciliare. Non voglio qua dilungarmi sugli aspetti procedurali, tecnici, giudiziari, è solo per dire che comunque ci siamo arrivati a questa tendenza in nome di indagini fatte in modo molto completo e difficile da smontare. Un modello che mi dicono che viene esportato adesso anche a Firenze, e un sistema che comunque si alimenta anche sicuramente di quella facciata politica che ha appena evidenziato Andrea, in quanto il tema della sicurezza viene accostato al tema decoro, e quindi sicuramente si accelera. Quello che posso aggiungere io a questo discorso, sulla base della mia esperienza personale, è che io quello che porto a processo è un'esperienza personale, quindi io ho tradotto quello di cui ho sempre parlato con la gente in strada facendo pezzi, l'ho tradotto in un modo intuibile giuridicamente, cioè sostengo che non è automatico che una persona stia imbrattando quando sta facendo la sua tag, oppure non è automatico sostenere che io imbratto anche se quel muro è bianco, la proprietà è tua e io vengo a farci una tag, non è detto che io stia imbrattando, perché per come l'ho fatto sempre io il writing per me non era imbrattamento, era una ricerca stilistica, passavo ore e ore e ore a modificare la mia tag in modo che fosse intuibile, fosse una cosa che per me fosse bella, e quindi dire che la mia tag era un imbrattamento su un muro per me era una grande offesa, e la ritengo come tale anche nei confronti di chiunque venga proferita adesso. Lo stesso per un disegno di street art, che io posso magari, a me sono sempre piaciute più le tag dei disegni di street art, per esempio mi sono sentito ad un certo punto di abbracciare anch'io un sistema più figurativo, tant'è che io le tag non le faccio più da anni, le faccio solo disegni, ma rintraccio la stessa volontà da parte di chi fa un disegno di street art, che forse è molto più facilmente intuibile dalle persone comuni. Infatti accade spesso di sentire che il writing è quello dei cattivi, no? Brutto, perché fa le tag e rovina le città, e la street art è invece quella bella, no? Che lascia i disegni, le poesie e i cuoricini e tutti siamo contenti. Invece dal punto di vista giudiziario penso che l'elemento sotteso a chi agisce in strada sia comunque, ditemi se sbaglio, è sempre il medesimo, perché a parte una frangia relativamente, direi, contenuta di persone che vogliono solamente spaccare, per me il codice di spaccare è sempre stata la ricerca di stile, quindi non è che ha senso diffondere il mio nome semplicemente su un treno o su un palazzo, ma anche accostarci una ricerca stilistica, senza la quale io non sono accreditato nemmeno nel movimento. Se io non avessi voluto il mio lettering nel writing, nessuno mi avrebbe mai conosciuto, sarei stato semplicemente un coglione che continuava a scrivere frode. Invece io mi sono sempre teso a fare una ricerca stilistica, come tutti quelli che conosco che fanno parte di questo movimento. Lo stesso nella street art, il codice è diverso, ma la ricerca stilistica, se vogliamo, la medesima, magari più ancorata ad una ricerca di significato, però tradotta sempre in qualcosa di bello, provocante, emotivamente coinvolgente. E quindi farlo passare per un fatto semplicemente antigiuridico, assimilabile all'imbrattamento, è ridurne il significato. Ora, mi è capitato che fino adesso sono l'unico che ha sostenuto questa cosa. Per fortuna ho trovato qualche giudice che ha accolto le mie teorie, qualche giudice, anche qualche giudizio importante, quindi le mie sentenze sono diventate anche dei precedenti che io condivido con tutti i colleghi e passo, perché voglio che questi principi vengano interamente capiti dalle persone, perché non sono un escamotage per far uscire fuori dei mafiosi, sono delle idee, no, che le persone condividono per strada, ma che nell'ambiente giudiziario, che è un altro mondo e ha degli altri codici, sono difficilmente condivisibili. Esatto, ho studiato giurisprudenza. Fare giurisprudenza io direi che ci vuole qualcosa di più. Cioè, adesso ho avuto qualcosa di importante, che è la sentenza in Cassazione, però la sentenza in Cassazione non ha detto niente nel merito. Bisognerebbe avere qualcosa di più, un inizio di giurisprudenza, ecco, perché in tutto sono cinque sentenze di merito. Sono cinque sentenze di merito e sono sempre state a Milano, e poi la conferma, vabbè, in appello, ma sempre a Milano. Quindi sono riuscito a condividere però questi principi con i vari colleghi che mi chiamano da varie parti, quindi a Taranto ho assistito indirettamente ad un altro processo, e poi anche di fuori dall'Italia, perché non so come è rimbalzata da qualche altra parte. Allora mi hanno chiamato anche dalla Germania per chiedere cosa ne pensavo di questa cosa, da Madrid e da Parigi. Con qualche collega all'estero ho condiviso, infatti io tenderei non solo a farne un discorso semplicemente italiano, ma visto che le esperienze comunque dilagano all'estero, magari l'estero ci può insegnare anche qualcosa e noi possiamo insegnare qualcosa con la nostra esperienza agli altri, cercare di condividere al di fuori dei nostri confini queste cose, perché se si crea una giurisprudenza comune sicuramente aiuta ad essere più coesi e anche a far valere queste ragioni in giudizio. Va bene, grazie a tutti, io passo. Dai. Ci sono stati processi in cui i disegni sono stati considerati arte e quindi è caduta l'accusa di vandalismo o di imbrattamento? Allora, io non è che ho l'esperienza, nel senso, ne avrò conclusi 25, tra i 25 e i 30 processi avrò concluso in tutto, ecco, di questo settore, di questo tipo di reato, che hanno detto è arte, oggettivamente solo uno l'ha detto, che è quando ho difeso il mio collega Manu Invisible, il Tribunale di Milano ha detto che era oggettivamente, soggettivamente arte, quindi non poteva essere imputato. Questa sentenza è stata presa dall'organo che si occupa di accusare in secondo grado, e quindi siamo arrivati in corte d'appello. In corte d'appello è stata fatta a pezzi, diciamo, perché alla fine lui è stato sì assolto, ma non perché fosse arte o perché non voleva imbrattare, ma perché per tenuità del fatto. Tenuità del fatto vuol dire che oggettivamente il giudice ritiene che quello è imbrattamento. Però la pretesa dello Stato non viene fatta valere perché è talmente tenue quella condotta che non te la fa pagare. Tutto qui. Esattamente, infatti io non ho mai ritenuto una grande vittoria quella, una vittoria di Pirro, ecco, una vittoria a metà, mi piacerebbe poter arrivare avanti con un processo del genere all'ultimo grado di giudizio e far dire alla Cassazione che effettivamente, cioè, però la Cassazione non potrebbe nemmeno dirlo effettivamente, perché l'elemento arte non è previsto all'interno del codice penale, non viene definita. L'arte è qualcosa che non viene definita nemmeno nella società in modo oggettivo. Se tu prendi il vocabolario non ti dà una definizione aperta. Se io parlo con te, ognuno qua dentro avrà una propria definizione di arte. Quindi bisognerebbe anche studiare come agire per modificare magari la legge. Sì, finale a sorpresa. Sì, l'abbiamo tagliato, era più lungo l'intervento, è più lungo ovviamente il tavolo e il discorso. Tutti invitati comunque, come dicevo, appunto, a riascoltarlo. wombat.noblogs.org. È veramente interessante, comunque, questo approccio anche giuridico che... Senz'altro, infatti. Lontano da noi spesso non... L'altro esempio lo portava l'altra avvocatessa, per chi lo riascolterà, ci sono dei processi ancora in corso su cui si sono dilungati in qualche dettaglio. No, aspetta, in realtà non ricordo. Parliamo però velocemente magari del giorno prima, in cui c'è stato un tavolo in cui anziché della repressione si parlava della produzione e riproduzione artistica, tentando in un modo... come doveva essere inizialmente, un po' fumoso, cercando un linguaggio comune e un tentativo comune di discorso, di capire quali nuove forme d'arte sono in atto, quali si vanno sviluppando, quali modi e mezzi alternativi o canonici o usati in modo poco ortodosso si applicano per riprodurle, eccetera. A questo tavolo hanno partecipato in molti, fra chi non ha partecipato c'è stato un gallerista di una galleria d'arte fiorentina che ha fatto un intervento sul finale e col quale poi ci siamo fermati con la radio a chiacchierare un attimo. La galleria è la Street Levels Gallery, che sta in via Palazzuolo a Firenze. È una galleria d'arte dedicata soprattutto all'arte urbana e all'arte contemporanea, e le abbiamo chiesto sostanzialmente chi siete, che cosa fate e com'è la vostra galleria. Ascoltiamo. Per Radio Wombat siamo qui assieme a Matteo Bidini, il curatore, gallerista, poi ci dirà un attimo come va detto, della Street Level Gallery, una galleria artistica fiorentina in via Palazzuolo che si concentra molto sull'arte di strada, e parliamo con lui a seguito di un tavolo realizzato oggi all'interno di una due giorni d'arte che realizza l'Assemblea Ribellarti assieme al collettivo Milanese Viola e una serie di artisti fiorentini, bresciani e di tante altre città, nella polveriera Spazio Comune all'occupazione di Viale Corsica. Abbiamo appena svolto un tavolo che si intitolava Le nuove forme di produzione e riproduzione artistica, e con lui, che è un gallerista che di queste forme si occupa, vogliamo chiedergli intanto come ti si deve chiamare, qual è il giusto epiteto, e poi che cosa fate e perché la vostra galleria si concentra su questo. Allora, grazie per l'introduzione. Diciamo, la nostra galleria, Street Levels Gallery, è una sorta di esperimento, è un po' un'isola felice che ci siamo creati, quando dico ci siamo creati intendo me e altre sei persone che sono comunque a vario titolo artisti, organizzatori, persone scultori, designer del legno e insomma esperti in varie altre discipline. E abbiamo fatto quello che, diciamo, con un termine un pochino più diffuso si può definire associazionismo, cioè abbiamo preso uno spazio per il quale paghiamo un affitto, dividendolo tra spazio espositivo, appunto galleria, e hub creativo. Attraverso l'hub creativo comunque noi lavoriamo in vari ambiti, svolgendo tutta una serie di commissioni che ci permettono in questo modo di mantenere aperto uno spazio espositivo di cui sono il gallerista, anche se gallerista mi sembra troppo altisonante, però alla fin fine è di questo che si tratta. È un lavoro che in gran parte, io insieme a Gianluca Milli mi occupo prettamente della parte organizzativa, gestionale e manageriale della galleria. E è un lavoro che al 90% si tratta di ricerca, comunque di cercare di entrare in contatto con altre realtà, con tanti artisti che fanno tante cose differenti su territorio locale, nazionale, internazionale, e il 10%, che è la parte comunque più difficile, cercare di organizzare e di creare tutte quelle situazioni per portare questi artisti a Firenze. L'arte di strada nasce da un forte senso di influenzamento, cioè gli artisti che scendono in strada dipingono tutti insieme e si influenzano gli uni con gli altri. Allo stesso modo penso che questa rete di influenze, di contatti, di terreni che viaggiano debba essere creata anche attraverso tutta una serie di situazioni analoghe di fruizione che comunque rimangono sempre a titolo gratuito. E in questo modo, come una volta Vrater si metteva in stazione a vedere i treni che arrivavano da altre città e vedere gli stili che giravano in altri luoghi, in altre città più o meno lontane, allo stesso modo io credo che la galleria, lo spazio espositivo, il museo può diventare uno strumento di fruizione di quello che avviene anche lontano da noi, in tutti quei posti per i quali non abbiamo magari un biglietto per viaggiare, per andare. E creando in questo modo una rete che dà e riceve, nel senso che riceve artisti da altre città, dall'estero, ma anche spedisce i suoi artisti in altre città, facendoli conoscere anche dove altrimenti probabilmente non arriverebbero. E appunto gestendo la galleria con tutta una serie di entrate, secondi lavori, commissioni che prendiamo in maniera parallela, ci permette di essere economicamente autosufficienti e di non dover in un certo senso seguire molte logiche di mercato, per cui se non vendo le tele non posso pagare l'affitto, ma magari dipingo due muri, faccio due serrande, vendo una tela e riesco in questo modo comunque a far girare un'economia che si autosostenta. In questo senso cerchiamo anche di essere bravi a fare più cose possibili da soli, nel senso che assieme appunto alla galleria gestiamo l'hub creativo, lavoriamo comunque nella produzione, nell'organizzazione di vari concerti bene o male hip hop con Project Family, creando così tutto un movimento che gira intorno a queste cose, a questo fulcro di interesse e che sostenta se stesso. E allo stesso modo, insomma, anche la serigrafia, siamo diventati bravi con la serigrafia fuori logo a creare serigrafie, quindi a far stampare dei prodotti artigianali agli artisti che ospitiamo, così da creare un mercato bene o male cheap alla portata della persona appassionata, che non per forza deve essere un collezionista, ma che se ha la passione di queste cose vuole comprarsi comunque il disegno dell'artista che gli piace, lo trova ad un prezzo comunque raggiungibile. Allo stesso tempo, chiaramente, se capita di vendere una tela che la vendi a una cifra nettamente più alta, si parla di 2, 3, 4, qualcuno vende tela a 10.000 euro, questo non è il nostro caso, però ben venga, ma è comunque un caso che di solito, cioè, è molto difficile, non è una cosa all'ordine del giorno. Però di questo si tratta. Spesso quando si parla di gallerie e mercato si immagina sempre i milioni. In realtà è molto difficile, però quando succede, quando si riesce comunque a sostentare il lavoro di un artista che per un dato periodo, per tot mesi, riesce a vivere della propria produzione, cioè, ti rendi utile a qualcosa. Fisicamente non sei la mano che dipinge il muro, però crei tutto un circolo per cui quel muro può essere dipinto. Solo un paio di cose, di dettagli forse rimangono da dire. Cioè, da quanto esiste Street Levels Gallery, se a questo punto, come mi sembra di capire, tutti gli eventi che si svolgono sono a ingresso gratuito, e poi quali artisti per intanto avete incontrato nel vostro percorso e magari anche che cosa state progettando per i prossimi tempi? Allora, noi generalmente abbiamo sempre esposto artisti che di base ci piacciono, cioè fa qualcosa che secondo me ha un senso. Ora, il secondo me ha un senso non è universale, chiaramente ognuno ha un proprio gusto soggettivo che può variare dall'estetica, dal contenuto, dal concetto, dal tratto di disegno. Noi cerchiamo sempre comunque artisti che secondo noi hanno molte volte giovanissimi, molte volte un pochino più avanti con l'età, però che hanno qualcosa da raccontare in vari ambiti. Come ho detto, noi siamo 7 persone a gestire la galleria, quindi di solito abbiamo questa unanimità nella scelta degli artisti nei quali crediamo. Io credo che un curatore o comunque un gallerista non si valuta dagli artisti che sceglie, ma dal momento in cui li sceglie. Cioè, se io credo in un artista oggi, domani può diventare un grandissimo artista oppure nessuno. Nel mondo dell'arte non esiste la fedeltà. Oggi lavori con me, domani lavori con un altro e magari fa una cosa più bella perché quel momento è migliore. Però credo che il lavoro di un artista debba essere collocato non universalmente, ma con un particolarismo storico, cioè quell'artista in quel dato momento aveva qualcosa da raccontare, che magari ora non c'è più, che magari ora è più potente, però in quel momento ha fatto quello e quella mostra ha regalato questo. Poi magari dopo due mesi lo stesso artista, non so, diventa il peggior marchettaro del mondo, però non si tratta di questo. Quindi io personalmente mi piace lavorare sempre con artisti che non conosco, cioè persone che fanno cose che non conosco, cioè che mi mettono un po' alla prova da organizzatore, ma anche alla prova di magari anche di gusto personale. Cioè di solito, ovviamente in questo mondo le immagini girano velocemente, ci sono tantissimi artisti che fanno cose differenti, e è difficile stare dietro a tutto, magari c'è il nuovo Leonardo da Vinci che sta producendo in Brasile adesso e non lo sappiamo. Però io credo che molti artisti, soprattutto se differenti, ti danno quell'energia continua del metterti alla prova, comunque del mettere la sfida a te stesso, che non trovi magari un artista che conosci da sempre. Poi noi come galleria abbiamo portato molti artisti da fuori, abbiamo esposto artisti fiorentini, ora a breve faremo anche la mostra di Yuri, di Open, come la mostra di Zeus. Insomma, stiamo preparando una bella sorpresa abbinata a mostra e concerto con un artista del mondo hip hop a Firenze a marzo. E questa è un po' diciamo la selezione che facciamo. A me dispiace spesso, noi abbiamo avuto la fortuna che siamo aperti da un anno e all'inizio noi comunque cercavamo gli artisti, lavoriamo in quest'ambito da 5 anni nella direzione artistica, nella produzione culturale di eventi, di festival. E comunque con gli artisti li conosciamo, li seguiamo, ci conosciamo proprio non solo per sentito dire. E molte volte mi è capitato che lavorando ripetutamente sempre con gli stessi, anche un po' le mie idee si standardizzavano, quindi arrivavo a produrre sempre lo stesso tipo di concept, di evento, di situazione. Invece mettere dentro sempre energie nuove, energie diffuse e allo stesso tempo inviare gli artisti comunque del tuo intorno culturale all'estero a conoscere altre cose è motivo di crescita e di scambio comune. Tutto questo chiaramente richiede un finanziamento che molte volte viene dalle produzioni artistiche, perché è il metodo quello fai, se riparavo tubi facevo l'idraulico, di questo si tratta. Quindi come si ripensa un nuovo genere, un nuovo tipo di artista, si devono ripensare anche tutta una serie di nuovi blocchi e organizzazioni che nell'intorno dell'artista si muovono in maniera fluida, in maniera eticamente giusta, in maniera che non come negli anni 90 veda l'artista come un pollo da spennare, non veda l'artista come non lo deve spremere, però ma deve fare l'interesse reciproco dell'artista secondo un'economia circolare alla fin fine. Ognuno mette in gioco le proprie competenze per dare a tutti la possibilità di continuare a sviluppare quello che sta facendo. Una sorta di... Le gallerie devono prendere più un'attitudine da hub creativo, da piazza nella quale non ci deve essere limite alla sperimentazione, guidata, comunque ricercata, intelligente, però sperimentazione. Dunque, un'ultima domanda. I riferimenti fisici e virtuali per chi ci ascolta da Firenze, da fuori Firenze, per chi ci passasse, dove è esattamente la Street Levels Gallery e quando siete aperti e nel mondo del web dove vi si trova? Allora, la galleria si trova in via Palazzuolo, 74 Rosso, siamo da fuori in realtà perché non possiamo avere un'insegna. E quindi da fuori in realtà non è facilmente visibile, però il 74 Rosso non è andato al nero perché è un condominio e ci maledicono perché gli suonano sempre a loro. E la galleria è aperta dal martedì alla domenica, dalle 3 del pomeriggio fino alle 7, oppure comunque essendo un hub spesso anche la notte c'è la gente dentro aperta, quindi un po' la qualunque, però gli orari fissi sono questi, altrimenti ci scriveteci alla mail. E, insomma, ci si fa trovare aperti a galleria streetlevels@gmail.com ancora non abbiamo un sito, ci stiamo lavorando perché dobbiamo fare un gran lavoro di messa insieme del materiale. E su Facebook e su Instagram, Street Levels Gallery sempre. Eccoci. Wow. Ace. Ciao. Torniamo. Allora, seri. Eccoci qua. Sì, no, è il mio microfono che saltella. Fa le bizze. Chiedo scusa. Quindi questo è il secondo contributo invece della galleria d'arte Street Level. Grazie. Andiamo a vederla, andate a vederla. Che ci ha dato anche poi un altro punto di vista, forse. Sì, erano comunque molti punti di vista e, esatto. non tutti, fra l'altro, concordi. Anzi, ci sono stati dei momenti particolarmente accesi. Quindi in realtà io lo trovo un segno di ricchezza positivo, certo. Del dibattito, il fatto che vi siano stati. Ma per farsi un'idea anche di cosa si è discusso, davvero, e qua la chiudiamo. Rinvitiamo di nuovo a riguardare quelli che saranno i podcast che caricheremo, in cui si potranno riascoltare per intero gli incontri interessanti che si sono svolti. Assolutamente. Questi podcast e non solo, perché ne troverete veramente tanti, tra i quali l'ultima rassegna stampa che è andata in onda stamattina a mezzogiorno, da mezzogiorno alle 1:30, e la potete trovare sempre su wombat.noblogs.org. Tante notizie direi non proprio felici, perché è stata una settimana piuttosto dura, concordi tu? Assolutamente. Diverse contestazioni, anche non contrastate in modo piuttosto forte, da Napoli ieri sera per poi altre durante la settimana. Bologna, ci sono stati, sì. Non scordiamoci appunto Bologna, la manifestazione contro il presidio fascista, dove ha parlato... No, presidio, parlava, sì, Fiore. Era un comizio. Sì, comizio, bravo, non presidio. È più corretto. Erano circa in 10. Sì. Anche per la questura, cioè, loro, non i questura. Manifestanti. Sì, comunque per esprimere la nostra solidarietà ai manifestanti di Piacenza e di Bologna, insomma. Assolutamente, anche a quelli di Livorno, perché ho visto che la Meloni ha denunciato 21 appelato persone. La Meloni. Ma quando gli hanno sputacchiato in faccia? Hanno sputacchiato in faccia, sì. Nel vero senso della parola. Sì, gli hanno veramente respinta. Però 21 denunce, sì. Invece sabato c'è stata la manifestazione a Roma protestare contro l'aggressione della Turchia, appunto, come ne abbiamo già parlato, al cantone di Afrin, quindi alla parte curda della Siria. Sì, defend Afrin. Esatto. E c'è stata la manifestazione a Roma blindatissima. Sì, c'era una quantità di polizia, c'è uno spiegamento di forza incredibile. Sono stati molti pullman, sono stati fra l'altro fermati prima di entrare in città all'uscita delle autostrade, hanno identificato diverse persone. Poi comunque la manifestazione si è svolta in modo molto molto pacifico. Diverse persone, fra l'altro, si dice 7.000 persone circa presenti. Infatti, sabato pomeriggio. Ma chissà che si aspettavano. Era una manifestazione contro un'aggressione. Contro l'aggressione, sì, di un però da questa... parte di uno Stato che, esatto, tra l'altro è stato ospite di Roma giusto 10 giorni prima, dieci due giorni settimane prima, bravo. È stato ricevuto dal Papa, l'abbiamo commentato, è stato ricevuto da Gentiloni e dal Presidente della Repubblica, baci, abbracci, doni addirittura, quindi... Sì, sì, no, non per sostenere il Papa, però la faccia del Papa era incredibile, non ce lo voleva, non voleva parlarci. Gli ha regalato il medaglione della pace. Sì, esatto, vero? Ma era con l'ollo. E viceversa cosa ha ricevuto? Non so cosa ha ricevuto in cambio. No, non saprei, sinceramente. Era portato il regalino, dai. Qualcosa. Sicuro, per forza. A Radio Onda d'Urto sono più bravi. Di chi? Noi giornali, vabbè, senza dubbio. Assolutamente, sì, perché l'hanno seguito tutta la diretta e... trovate sui loro podcast tutta la diretta, insomma, i vari contributi della manifestazione. Ci sono però delle novità, no, Bricobaldo? Nel senso, ci sono un paio di novità, sì. Piuttosto fresche. Piuttosto fresche. E contrastanti, peraltro. E anche sì, fra l'altro contrastanti. Perché, allora, io ho trovato un articolo del manifesto di Chiara Crociati, che appunto spiega gli ultimi eventi, e non tanto sul campo, perché sul campo continuano gli attacchi da parte dell'esercito turco, cioè, 180 vittime preceduto da accertate. Dagli islamisti, 180 vittime accertate fra i civili, circa, certo, poco meno di un centinaio fra le file curde e delle FDS, ma soprattutto le perdite sono ingenti nelle milizie islamiste legate ad Al-Qaeda, sotto al soldo della Turchia, che invece contano circa 600 caduti, una cosa del genere. Militari caduti, e anche fra le fila turche. Perché la notizia del manifesto però verte su un accordo. Su un accordo che è stato stipulato tra la Turchia e gli Stati Uniti, che prevede fondamentalmente la liberazione, l'occupazione da parte delle truppe turche di una città, Manjib, che attualmente è sotto il controllo curdo. Esatto, e a est dell'Eufrate attualmente ci sono sia gli Stati Uniti che le forze curde, ma questo accordo fatto fra i due paesi NATO prevede appunto lo sgombero e la ritirata dei curdi, e questo precederà addirittura, secondo loro, anche allo sgombero, insomma all'occupazione poi di Afrin da parte delle truppe turche in accordo con gli Stati Uniti. Quindi questo è la... Esattamente. E invece, questa era una notizia di domenica? Di sabato, sì. Scusami. Invece notizia di oggi? Ah, in tutto questo naturalmente, cioè, bisogna considerare che le truppe turche stanno faticando molto ad avanzare. Non riescono. Aveva annunciato la vittoria imminente, la rapidità, no, di questa azione militare, e invece poi si è scontrato contro una resistenza fortissima da parte di tutti, da parte dei combattenti, da parte degli abitanti. Sì. Esatto, a tal proposito vi consigliamo di ascoltare appunto l'intervista di Radio Onda d'Urto. Aiutami a ricordare. Allora, questo qua, Afrin, accordo militare tra SDF e governo siriano. Questa invece è la notizia freschissima, che appunto parla dell'evento storico, cioè di un accordo tra le truppe FDS e le truppe siriane, curdo-arabe, sì, sì. E l'esercito siriano per il controllo della frontiera con la Turchia. Quindi di fatto è la prima volta che il governo siriano si lancia in una difesa insieme alle truppe curde. Esatto, perché comunque è una difesa propri confini. Assolutamente, siriani, no? Che sono i confini di entrambi, perché comunque ricordiamo che i curdi non puntano certo a un indipendentismo, ma a un federalismo, quindi comunque loro si considerano siriani, ecco, si considerano nello Stato siriano. E questo ha smosso il quinto attore di questa, di questa vicenda, che è appunto la Russia. La Russia. Vabbè, sì, ha smosso... Relativamente, però, perché poi anche la Russia sì, dice di sostenere la causa curda, di riconoscere le loro ragioni, ma di fatto poi 20 giorni fa ha ritirato il contingente da Afrin in vista dell'attacco della Turchia, quindi sì... No, esatto, però appunto, sempre Radio Onda d'Urto, nell'articolo che vi stavamo dicendo, c'è poi anche un'intervista a Dimitri Bettoni, che è un giornalista freelance dell'Osservatorio Balcani Caucaso, che era lì, è stato intervistato a tal proposito, e raccontava appunto anche questo aspetto della Russia, che un po' è piatto ricco, mici ficco, nel senso, vede un po' in opposizione, perché poi è tutta una guerra ideologica anche lì, no? Il quinto attore, poi bisogna considerare che c'è anche l'Iran certo. Israele, abbiamo visto che si sono alzati i toni proprio vicino al confine con la Siria, e quindi certo. È molto molto complesso. E l'abbattimento degli aerei dell'F-16 israeliano, sì, da parte di un missile siriano, ecco. Comunque continueremo a tenervi aggiornati sulla questione appunto di Afrin e l'attacco turco, però chiudiamo per oggi appunto questa parte. La parte seria. La parte seria. E ci dedichiamo invece a sudare pedalando in punta di pedale. Ho visto una bella signorina su un bike in punta di pedale. Siamo tornati. E siamo sempre noi. Siamo sempre noi, tra l'altro, sì. Ora vado a prendere lo scotch, per questi minuti. Ora vado a prendere lo scotch. Va bene, va bene. Allora, lo scotch volete da bere? Anche da bere? No. Cioè il liquore, io, dici? Radio Verità. Io vorrei un po' più di luce. Facciamo allora. Se non mi ustiono. Signor Bricobaldo, che pedala, sempre e comunque. Sempre pedalando. Di cosa ci parli ad oggi? Allora, oggi vi parlo delle cose delle quali vi ho già parlato. Aspetta, la regia. Che mi sto accecando. La luce mi sta puntando in faccia. Abbiamo un interrogatorio, praticamente. Ah, ma l'ho letta. Mettila così. Gobi. Allora, sì, Gobi. Gobi. Gobi. Le il deserto, verdi. Il famoso deserto del Gobi. Gobi. Sì, grande risate a questa notizia. No, grandi risate assolutamente. Grandi risate, ma non solo, perché purtroppo perché? Cioè, c'è anche un risvolto. Mettiamola così. Raccontaci il bike un po'. Sharing. Questo è un articolo di Repubblica che risale a 5 giorni fa. Bike sharing ora è ufficiale. Gobi lascia l'Italia. Troppi atti vandalici contro le nostre bici. A un mese hanno detto. Oh, hanno detto un mese. Un mese hanno detto. Ma sì, ma che se ne vale. Allora, praticamente loro sono le bici. Si sta parlando delle biciclette verdi. Il secondo operatore di bike sharing è arrivato a Firenze appunto un mesetto fa. Di Hong Kong. Sì, ha schiantato le biciclette. Circa 400 biciclette nelle strade. E dopo un mese ha deciso di toglierle perché troppi atti vandalici. Ha deciso di ritirarle da Firenze, Torino e Milano. Cioè da tutte le città in cui era? Da tutte le città italiane, sì, ma non solo. Anche in Europa, a Parigi. Sì, Parigi, Roma, Torino, insomma. Perché loro sostengono che ci sono stati veramente tanti atti vandalici e quindi non gli conviene più, fondamentalmente. Quindi prendono, fanno le valigie e se ne vanno. Perché si ritirano proprio da tutta Europa, appunto. Da tutta Europa, sì. Gli europei sono vandali. Esatto, però il sindaco Nardella allora, il sindaco Nardella subito, figurati, cioè subito subito lui ha detto no, da noi no, noi siamo bravi, figurati, non facciamo di questi casini. È a Bergamo che sono lassù, bergamasche. Merde. E comunque troverà subito un altro operatore, un nuovo operatore. Dice ce ne sono diversi. Sarà Offo Bike il prossimo a entrare. Ah, che lo sono, sai. Le bici gialle invece sono gialle. Sì. Che sono le bici legate, sono quelle, ecco, è l'azienda che attraverso un, dice Forbes, sostiene, è una nota rivista di economia, sostiene che dietro Fobike ci sia Alibaba. Abbiamo già detto, Alibaba sì. Attraverso la Anti-Financial. Tutte cinesi con queste cose? Tutte cinesi, assolutamente sì. Aspettate. Dimmi. Ma invece Mobike... Mobike va bene, sì, Mobike sembra stia andando alla grande. No, la sigla nostra può andare allora. Tantissime. Se l'avessimo fatto sul GOB avremmo era da cestinare a questo punto. Sì, no, il Mobike va bene. Non ha tantissimi iscritti, tantissime cose. Quindi senti, sarà che tranquilli. Complice il fatto che il Mobike ha pezzi unici, come dicevamo in quella puntata, piuttosto che queste Gobi che sono biciclette, io penso, standard, se non sbaglio. Sono standard, sì, sono anche un po', qualcuno dice che sono anche un po' fragiline, per quello si spaccano e poi diventano, agli occhi dell'azienda, sono atti vandalici, però... Boh. Il Mobike, in teoria il Mobike addirittura ha un costo di gran lunga maggiore, il costo unitario della bicicletta è di molto più. Se non ricordo male, una Mobike costa all'azienda 440 euro. Sì, mentre queste qui verdi circa 200, quindi in teoria gli atti vandalici sulle Mobike sono ancora più pesi. Sì, ora prendiamo lo scotch. Assorbibile. Però vabbè, comunque... Nardella che cosa dice? Nardella dice vabbè dai, ne troviamo subito un altro di operatori, però c'è un però, perché operatore nuovo che arriva e azienda cooperativa che chiude. Vecchia che chiude, si sta parlando della cooperativa Ulisse. La cooperativa Ulisse che ha accusato enormemente l'arrivo del bike sharing a flusso libero, perché intanto era segnataria di un di un noleggio di bici davanti alla stazione. E non molto comodo, si deve dire che... No, avevano tre punti, anche Sant'Ambrogio e Santa Croce erano... Era un po' più complesso, diciamo, per i tempi nostri del Mobike. Vabbè, c'è una multinazionale dietro, naturalmente. Grazie. Questa è una cooperativa sociale. Questa è una cooperativa sociale che, fra l'altro, con le biciclette fa un lavoro molto particolare, perché attraverso questo progetto, il progetto dei noleggi, ma anche il progetto Piede Libero, che sta chiudendo per l'appunto, aveva dei dipendenti che arrivavano da Sollicciano, quindi c'era un progetto all'interno del carcere di manutenzione delle biciclette del noleggio, e poi appunto col progetto Piede Libero hanno lanciato una linea di biciclette bellissime, fra l'altro veramente bellissime. Sì, se mi posso permettere, anche molto costose. Anche molto costose, assolutamente, sì, ti puoi permettere, perché è vero, costavano tanto, erano belle, e questo progetto fu lanciato per l'appunto in occasione dei mondiali di ciclismo che si svolsero nel 2013 a Firenze a settembre, e fu veramente un grande evento. In quell'occasione lì, naturalmente, avevamo come sindaco il nostro amico Matteo, che cavalcò l'onda, e andò addirittura a presentare questo progetto, e quindi io ho trovato un estratto della conferenza stampa della presentazione di Piede Libero, dove lui diceva: delle carceri si parla spesso quando ci sono eventi negativi, ma i problemi nazionali non si affrontano con prevedimenti una tantum, ma come un'operazione e sfide culturali ed educative. Per questo siamo felici di promuovere questa iniziativa bellissima con la cooperativa Ulisse, che da tanti anni lavora con i ragazzi del carcere e che ora vede la nascita di un brand di prodotti che verranno commercializzati. È un modo bello per dimostrare il volto etico e solidale di Firenze proprio nei giorni del mondiale di ciclismo. Ecco, quindi io vorrei un attimino ricordare a Matteo, ma comunque l'amministrazione, sì, visto che non è altro che la continuazione del Supremo, e che questo volto etico e solidale a Firenze forse c'era, ma secondo me neanche, perché... visto cosa sta combinando, però ecco, ve lo siete scordati, perché non avete considerato voi con l'arrivo, con la corsa al bike sharing, non avete considerato che magari c'è qualcuno di ben più vicino e di ben più bisognoso delle attenzioni e del giusto riconoscimento. La parola chiave penso sia brand. It's liberalism, sì. Baby, tipo. Esatto, e quindi la cooperativa Ulisse adesso che cosa fa? Queste biciclette le svende. Le potete, dal suo sito potete trovare le indicazioni per poter comprare una di queste biciclette a prezzi veramente scontati. Sì, non voglio fare pubblicità, però comunque si parla di persone che stanno perdendo il lavoro e di persone che... Ma e non si sta pensando a un reimpiego... Allora, io in consiglio comunale ho visto che qualche assessore si è un attimino scaldato per questa cosa, e quindi l'amministrazione si promette ha detto che cercherà una soluzione a tutto questo. Chissà, vediamo. Speriamo. Incalziamo. Assolutamente. Non è finita qua. Esatto. Signori. No, non è finita qua, perché ci sono altre buone notizie. Questa era cattiva. Ci sono delle buone notizie. Riguardano, intanto il mondo della bicicletta a livello nazionale, perché appena prima della fine della legislatura è stata approvata una legge quadro sulla mobilità che dovrebbe facilitare e finanziare molto la costruzione di piste ciclabili, soprattutto... però è un po' più incentrata sul cicloturismo. Fatto sta che invece ma tu guarda, sì, fatto sta che invece l'amministrazione di Firenze ha approvato un progetto portato avanti dai ragazzi della FIAB, Firenze Ciclabile, che hanno appunto fatto il progetto della bici politana, che l'abbiamo nominata qualche tempo fa. Bici politana, che non è altro che piste ciclabili collegate l'una con l'altra. Dovrebbero dovrebbero la bici, esatto, uno che andrà a pensare ma non dovrebbero essere semplicemente le piste ciclabili no, questa è la ciclopolitana perché le piste ciclabili a Firenze iniziano e finiscono un po' così, cioè a un certo punto, cioè, ma a Firenze non solo. Comunque la bicipolitana è nata a Pescara e ha riscosso un sacco di successo e verranno proprio fatte queste otto linee, quindi con queste piste ciclabili tutte colorate in modo diverso, con delle sorte di fermate, però questo insomma a parte può sembrare una cosa singolare, però sembra una cosa molto utile, quindi... Ma è una realtà di fatto, cioè parte. Dovrebbe partire, sì. Questo sì. Dovrebbe, però. Dovrebbe partire. Parte, l'hanno approvato e che ti devo dire? Vabbè, se l'hanno approvato. Vedremo, lo seguiremo. Se fanno le cose non sono fatte. Lo seguiremo, sì. Bene, mentre... No, come Radio Wombat sta streamando davvero. Così, giusto per... Giusto, rimarchiamolo. Basta, le notizie importanti sono queste. Poi vi posso rilanciare l'appuntamento di giovedì, che c'è la Critical Mass del mese, di febbraio. Sì. È passato poco. 18:30 Santissima Annunziata. 18:30 Santissima Annunziata, finirà al Melograno con una bella cena. Quindi Firenze Sud. Firenze Sud, sì. Una cena che servirà per finanziare la CIA Mona, che è in preparazione. C'è stato un altro evento, un evento all'Emerson sabato. Sei stato? Sono stato a fare la mini velocity. Ecco, come andata? Hai gareggiato? Sì. Sono caduto due volte. Sono arrivato malissimo. È che ti sei fatto male? Un po', sì. Ho capito una cosa, è una questione di fortuna. Nel senso che... Nel senso che... Come a scacchi, sì. Come a scacchi, no, nel senso come? Che... Poi devi essere grosse, bravo. Però devi essere bravo sulla bicicletta giusta, perché credo che alla prima mancia ho beccato una bicicletta dove veramente non sapevo dove mettere i ginocchi. E quindi... Era troppo piccola? No, erano tutte troppo piccole, però alcune avevano un manubrio un po' più dritto, un po' più alto, quindi si riusciva a pedalare in modo quasi decente. Una fatica boia. Comunque. Quante pedalate al secondo? Tipo 5. Ma poi c'era anche c'era anche un salto, una salitina. No, è stata una cosa figa. Ma chi ha vinto? Ha vinto. Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, non era proprio competitiva, era più folcloristica. Comunque se l'è meritata. Però se l'è meritata, sì, perché addirittura chi ha vinto la finale, ce ne sono state prima due manche per poi accedere alla finale, perché le biciclette erano solo 8, quindi non abbiamo potuto farlo tutti insieme. E il vincitore era un ragazzo che solitamente va in BMX. E addirittura ha perso la catena all'inizio e quindi ha fatto tutto tipo monofatti. Ah, un professionista. Dice, ma ragazzi, ha fatto a bici, gli altri sono andati in terra. Se vai a monofatti non vai più veloce, secondo me. Aiutami, Mario, è come quello no, di... che pedalare una bicilettina. Il pettinatore australiano che vince l'oro. Sì, tipo lui, vero. Bellissimo, sì, bellissimo. Tutti lo sanno. Bene. Eroe. Quasi finito, perché l'ultima notizia che vi do è l'apertura di una ciclofficina molto vicina, a Grosseto, Pedale Libertario, che venerdì 23 febbraio, in occasione della Critical Mass di Grosseto, aprirà le sue attività. Vabbè. Fresca. Evviva. Quindi se siete ciclisti Wombat, sì. E passate da Grosseto, avete qualche problema, andate al Pedale Libertario e risolvete tutto. Risolveranno i vostri problemi. Ci salutiamo con un pezzaccio. Il pezzaccio che ci hai portato? Ho portato Pedali di Frank High Energy. Usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala. segui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie la corona che attraverso una catena condiziona il moto del sistema. Monarchia meccanica che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica, statica, termodinamica, quasi democratica, se quando si ferma si va a ruota libera, o tirannica, con la fissa dello scatto, senza i freni che difendono dall'impatto, e mansione del pignone, fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, in costante acrobazia, irradia l'energia, dal centro fino alla periferia, è solo una questione di rapporto tra ingranaggi, e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, che l'unico motore qui sei tu con il fiatone a spingere in salita per la vita il carrozzone. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sai bene che la storia è ciclica come la pazienza è biblica, e la peggior salita è una discesa ripida, repentina, tutta tornanti, serpentina, peso in avanti, giù dalla china, come una valanga controllata, precipiti in picchiata, il paesaggio vola dentro una zoomata, guardi dove vai, vai dove vuoi, occhi aperti e sai come stai, fai come puoi, il traguardo arriva quando meno te lo aspetti. È un parcheggio di bici, appoggiate i cavalletti, bici abbandonate là, senza controparte, pronti a ripartire se qualcuno parte, pronte per andare lontano, cambiando i rapporti, andandoci piano. Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Anche le foche bevono Radio Wombat. Yuri! Eccoci qua, coloro dei Balcani, stacco diverso dal solito. Non c'è il Kalashnikov sotto, non c'è Goran Bregovic, ma qualcosa di un attimino più serio, perché oggi l'Uro dei Balcani, in tema un po' con Frankie High Energy, ripercorre la storia, appunto la strada della storia, pedalando. Il tutto parte da questo articolo dell'Internazionale, uscito nell'Internazionale il 22 dicembre, che partiva dalla notizia, dal racconto di quello che è accaduto al processo del Tribunale Internazionale per i Crimini contro l'Umanità dell'AIA il 29 novembre del 2017. Il Tribunale si è espresso nei confronti di un generale, di un ex generale, Slobodan Prajak, condannandolo a 20 anni di prigione in relazione appunto alla guerra in Bosnia e agli eccidi Srebrenica, esattamente, in particolar modo di Srebrenica, perché lui era uno dei generali, una cinghia di collegamento per l'esattezza, appunto delle forze degli assedianti. Però il gesto eclatante che è accaduto e che ha dato vita a questo articolo, appunto, di Slavenka Draculic, è la giornalista, è il suicidio, appunto, del generale. Si è suicidato in diretta in aula subito dopo la sentenza. Ha gridato: giudici, Slobodan Prajak non è un criminale di guerra, rifiuto e un disprezzo il vostro giudizio, e ha bevuto una boccetta di veleno. Esatto, sì, penso le immagini sono girate tantissimo. Anche il video, cioè addirittura si può vedere proprio il video. Sì, perché era ovviamente in diretta. Esattamente. È stata abbastanza, insomma, immagini che colpiscono. Assolutamente, sia per lo slogan, cioè per quello che ha detto, che peraltro parla in terza persona, l'accusato. Sia dal punto di vista proprio delle immagini, del fatto che un condannato avesse con sé del veleno, quindi vuol dire che continuava a crederci, voi, cioè, evidentemente, assolutamente è convinto di quello che ha fatto lui. Non so se lo sapete, ma è un artista. Però già che era prima della guerra, era un regista teatrale e cinematografico, e quindi poi in realtà, come dice la giornalista, lui ha portato in scena un qualcosa che poi ha portato all'estrema soluzione, che è la morte, ma ha fatto un teatrino. È palesemente un teatrino, cioè la volontà di farlo, fare un evento mediatico fondamentalmente. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro lui è sposato con l'ex moglie di Goran Bregovic, se sapevate, no. Questa gossip inutile, ma quindi vi cito un po' il testo perché è interessante alcune cose che dice. Allora: prima di diventare un soldato, Prajak, tra le altre cose, era stato un regista teatrale cinematografico. Allai ha diretto e interpretato la sua performance finale, appunto quello che vi dicevo. Il grido, le ultime parole della corte al pubblico e soprattutto ai croati sono stati pianificati per ottenere la massima attenzione. Essere sulle prime pagine dei giornali internazionali è il più grande sogno di tutte le persone che fanno teatro. Ma per chiunque sappia chi era Prajak, è chiaro che il suo gesto non era rivolto solo alla stampa internazionale. Il messaggio dell'ex generale era un messaggio politico rivolto alla Croazia. Lo conferma la scelta di parlare di sé in terza persona, come vi dicevo prima. Suicidandosi, Praga è riuscito a diventare un eroe e un martire. In un istante si è trasformato in un monumento nazionale. Il compito, e qui secondo me uno dei punti cardine, il compito del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia era di giudicare i singoli individui per non colpevolizzare delle nazioni intere. Quindi il compito in questo caso, ma in generale, del tribunale, e su cui si potrebbe aprire anche tutto un dibattito sulla legittimità in senso delle prassi che usa del tribunale internazionale, perché evidentemente ha delle difficoltà nella sua azione, perché questa reazione poi è una diretta conseguenza del modo in cui è stato portato avanti il processo. Giudicare i singoli individui per non colpevolizzare l'intera nazione, quindi tutta la Croazia in questo caso. E invece l'effetto è stato opposto, perché l'ex generale, un uomo istruito e intelligente, ha deliberatamente sovvertito questo principio, ha trasformato se stesso, il colpevole, in una vittima, ha trasferito simbolicamente i suoi crimini nel corpo collettivo del popolo croato. E il popolo croato, che ahimè, come sappiamo dalla stampa, insomma, in generale, sta vivendo una fase nazionalista, in gran parte risposto a questo spettacolo, appunto, come si aspettava il generale. In patria le relazioni alla sua ultima esibizione sono state eclatanti: stupore, rabbia, lacrime. Lo spettacolo è cominciato con il primo ministro Andrei Plenkovic, che ha espresso la sua insoddisfazione per il verdetto, dichiarando che il suicidio di Prajak dimostra la profonda ingiustizia morale commessa nei confronti dei 6 condannati. Ricordiamo che c'erano altri 5 imputati che sono stati condannati, a parte 2 che sono stati invece assolti, grazie, sono stati assolti perché riconosciuti come non colpevoli in particolar modo nella strage di Srebrenica. E così avanti, l'articolo riporta altre reazioni della popolazione che hanno fatto anche fiaccolate. Ebbene, come stanno messi? Sì, diciamo che qui i giudizi, cioè, vanno al di là, sono una questione secondo me balcanica, appunto la sorta di balcanizzazione anche europea, e questo mi permette di ricollegarmi a un libro di Paolo Rumiz, Maschere per un massacro, edito da Feltrinelli. Rumiz era lì, ha visto proprio tutto, ha vissuto tutto il conflitto, ha vissuto anche momenti di estrema violenza, e infatti in un primo momento non ha pubblicato niente, non ha mai scritto niente, soprattutto in relazione alle uccisioni che ha visto. Mentre nell'edizione che poi ho io di Maschere per un massacro, ha capito che invece era importante parlarne. E proprio all'inizio del libro, Rumiz secondo me affronta alcune tematiche molto importanti, ossia la questione della debolezza del bene, indebolita dall'ignoranza. Tempo di aprire il libro, ecco. Infatti poco dopo parte con una frase che lui, dopo tutto, inizia parlando di questo vecchio serbo che aveva protetto dei musulmani, e arrivano le milizie, lo portano fuori, gli dicono di spogliarsi e poi lo uccidono. Fatta in breve, raccontata in breve, e Rumiz era lì davanti, ha visto questa cosa, e ne trae subito una doppia conclusione, cioè il bene prevale numericamente sul male, ma non sa affiutare il pericolo. E continua: eppure il male è visibile ed esplicito. Quando lo psichiatra Radovan Karadžić, lanciando cupi avvertimenti, scelse le montagne per diventare il capo tribù dei serbi nazionalisti, i sarajevesi dissero: fanfaronate. Nel giugno del 1991, mentre già si combatteva nei villaggi attorno, la borghesia serba e croata del Vukovar, sorseggiando aperitivi, snobbò i bollori etnici dei villaggi circostanti e ripeté: accadrà ovunque, ma non qui. E quando nell'estate del 1991, un anno prima della guerra in Bosnia, gli abitanti di Nastrici, quartiere a maggioranza serba vicino all'aeroporto di Sarajevo, cominciarono a scavare buche nel terreno, quelli del vicino rione di Dobrinja, passando, non capirono che si trattavano di trincee. In quella stessa estate, una commissione militare venne a visitare la casa di montagna a Pale di una mia conoscente sarajevese per vedere se era adatta a contenere un ospedale militare. Lei ci rise su, fino alle lacrime. E anche gli amici risero in città, delle assurde paranoie difensive dei militari federali. Nel settembre del 91, Persa Vucic, casalinga di Belgrado, seppe dal figlio, richiamato sul fronte croato di Vukovar, che riserve di vecchi carri armati venivano rimesse in esercizio per essere trasferiti in Bosnia. Lo scopo, per dichiarazione esplicita del comandante della base SID, colonnello Spenev, era di proteggere i serbi a Zvornik e Brejnik, ma anche Persa non ci credette. Insomma, va avanti raccontando diversi esempi del fatto che non si credeva che la guerra potesse accadere lì. E non solo, cita anche in Italia, chiedendo ai connazionali: ma cosa sapete, appunto, durante lo scoppio proprio della guerra, dov'è che sta avvenendo? E la gente rispondeva dicendo che era 3-4 volte più lontano della realtà, quindi era proprio una visione distorta. Tutte le mosse preparatorie del conflitto in Bosnia si sono svolte alla luce del sole. Alcune sono state persino provocatoriamente annunciate. La stessa guerra in Croazia è stata in sé un annuncio tragicamente esplicito, eppure quasi nessuno in quella fatale primavera del 92 vi prestò attenzione. Allora la velocità impressionante della pulizia etnica fu resa possibile non solo dalla sua lunga, meticolosa preparazione, ma anche da questa incredulità delle vittime e della gente in generale. Non esiste prova migliore, forse, che la Bosnia non è stata distrutta dall'odio, come fa comodo a troppi supporre, ma da una diffusa ignoranza dell'odio. In Bosnia ho imparato che il male è più razionale, più guardingo, addirittura più coerente del bene. Avverte molto prima l'odore del pericolo e la puzza dell'imbroglio. Osservando un'industria del crimine, avremo molto da imparare, disse il giudice Giovanni Falcone nell'intervista concessa prima di essere ammazzato alla periferia di Palermo. Magari, diceva, lo Stato riuscisse a imitare le capacità organizzative della Cosa Nostra. Ma il male non solo è più preparato e astuto del bene, e anche meno vulnerabile. Perché è stato perché è stato così facile uccidere un Kennedy, un Luther King o un Ratneau? Perché invece un'aurella di intoccabilità ha protetto fino all'ultimo Hitler e Stalin? Ebbene, dai Balcani ci viene un insegnamento. Ciò che ci trasforma in carne da cannone è palesemente lo stesso imbonimento che ci fa comprare questo o quel detersivo, o votare questo o quel partito. I veleni che generarono lo sterminio degli ebrei sono gli stessi che hanno corroso la Bosnia, Serbia e Croazia. Per verificare l'universalità di certi meccanismi, nessuna generazione, come quella dei nostri figli, ha avuto a portata di mano una guerra così vicina e trasparente, eppure nessuno come loro mi sembra cieco di fronte agli eventi. Quando mi capita di spiegare ai giovani i trucchi di cui si serve il virus della guerra per aggredire gli individui, vedo invariabilmente dipingersi nei loro occhi lo stesso inerme stupore del vecchio Gojo Petrovic, e ho paura. Petrovic era quello che vi raccontavo prima, che gli è stato ucciso davanti a lui, che era incredulo davanti al fatto che gli dicessero di abbassarsi i pantaloni e che lo volessero uccidere. Il fatto è che il male non acceca solo le sue vittime, ma anche i testimoni esterni, e qui veniamo in causa noi. Chi sta a guardare e pensa alla guerra come un'eventualità remota, o a una catastrofe naturale come l'inondazione o il maremoto, questo rivela un'altra legge aurea. La percezione del pericolo non aumenta, ma diminuisce con l'avvicinarsi dello stesso. In Italia, più ci si accosta al confine orientale, più scarsa diventa la partecipazione negli eventi danubiani. E quello che vi dicevo prima, appunto, che poi chiedendo ai connazionali sbagliavano appunto la lontananza della guerra. Ma il paradosso, e qui sono in conclusione, ma il paradosso esplode con la TV, attraverso le finestre dei teleschermi. L'addossamento agli eventi è tale che non li si vede più. Il volto di una donna in lacrime o il corpo di un uomo massacrato occupano tutto il campo visivo e quindi uccidono nello spettatore il senso del contesto, della proporzione e della distanza. Gli aggressori della Bosnia hanno capito in anticipo che il nostro voyeurismo televisivo equivaleva a perfetta cecità e ne hanno tratto i loro vantaggi, constatando che dalle nostre parti la politica dipende dalla TV, quindi da uno strumento cieco. Essi hanno capito che in anticipo che la nostra politica estera sarebbe stata cieca, dunque avrebbe garantito loro l'impunità. Così essi ci hanno benevolmente consentito di puntare tutti i nostri riflettori su un microcosmo di Sarajevo, di farne un comodo palcoscenico umanitario per la vanità dei nostri politici e soprattutto di sfogare su di esso la nostra fame di immagini. In questo modo essi hanno avuto mano libera sulla grande zona d'ombra del retroscena, cioè sul resto della Bosnia. E questo si ricollega anche all'articolo che vi dicevo prima, appunto, sembra che al governo croato non interessi più l'immagine del paese all'estero. Se c'è una lezione che ha imparato da quando fa parte dell'Unione Europea è che una volta che sei dentro puoi fare quello che vuoi, proprio come l'Ungheria e la Polonia. Se alcuni stati grandi e importanti seguono questa regola, allora la più piccola Croazia può permettersi di farlo ancora di più. Concludo dicendo appunto che è questa la nostra cecità che c'è stata in questo caso, la città di tutta l'Europa, l'ignoranza nel dire no, non succede qui, non succederà, si ricollega a quello di cui stiamo parlando da settimane, dalla manifestazione di Macerata, cioè dire che non è un problema. Minniti dice che il fascismo in Italia non è un problema. Ebbene, su altri termini, perché quella è stata una guerra di sterminio, ma la questione è sempre la stessa. Non sono cose lontane, non sono cose che non esistono, e quindi è importante attivarsi, è importante andare in piazza o tante. Anche l'atteggiamento dei media è stato quello, direi. Esattamente. Anche qui si focalizza. Qualcuno vuole la manganellata. Comunque questa cosa mi... Aspetta, non ci sei? Ora ci sono. Questa cosa mi ricorda l'assenza del paradosso di Popper. Non so se conoscete il paradosso di Karl Popper. E cioè il fatto che con gli intolleranti. Esatto, sì. Cioè il fatto che comunque una società tollerante, per restare tale, deve anche esercitare l'intolleranza verso l'intolleranza. Perdonate un po' il gioco di parole. Quindi dice, accettandolo in qualche modo alla persona intollerante, gli si dà modo di prendere sempre più potere e consenso. Io concludo, e non stancherò mai di citare Zero Calcare: non è una partita a bocce, ragazzi. Il fascismo non è una partita a bocce. E niente, ci sentiamo con loro i Balcani prossimamente. Io vi ringrazio. Yuri! A te. Yuri! Grazie, caro. Yuri! Yuri! Oh! Caccia! Dai che comincia! Sì, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nozioni inutili. Nozioni inutili. E rieccomi qua. E rieccolo. Un altro latitante. Grande torna. Ritorno del latitante. Dove sei finito? Sono finito preso da varie beghe socioculturali. Giue. Ma eri in madre Russia? No, no, ancora, ancora no. Ancora no. Mancherà circa 3 settimane. Ok. La mia trasferta. La mia trasferta. In fondo all'Asia. Ma sono qua invece. Cosa ci racconti oggi? Sono qua e vi racconto anche io di una guerra. Ah. Però questa è una guerra un po' particolare. Allora, se io dico grande guerra, di quale conflitto sto parlando? Prima guerra mondiale. Bravissimo, bravissimo. Però c'è stata un'altra grande guerra. Lo sapevi? La seconda? Eh no. C'è stata un'altra grande guerra. Ce n'è un botto. Ce n'è stata un'altra in Australia. In Australia, ok. Nel 1932. Ed è durata dal 2 novembre al 10 dicembre. Ok. Perché un blitzkrieg, una guerra lampo. In questa guerra lampo, l'esercito australiano, penso in una cosa senza precedenti a livello storico e mai più ripetuta, ha perso contro degli emu. Ah, gli emu. Cioè l'animale. Gli animali. Gli animali, sì, sono, per chi non lo sapesse, una specie di struzzo, similstruzzo. Ah, cattivissimo, gli occhi rossi. Esatto. Cosa è successo? Praticamente dopo la prima guerra mondiale, una serie di veterani della prima guerra mondiale avevano chiesto, cioè, o meglio, lo Stato australiano gli aveva concesso una serie di terreni che però avevano portato queste persone in crisi, perché in realtà questi terreni erano scarsamente coltivabili anche a causa di un impaludamento, diciamo, quindi diventavano sempre più ristagnanti, e in più sono arrivati all'improvviso 20.000 emu. Ah, 20.000. A 20.000. Un'occupazione da parte degli emu. Sì. La comunità sono emu proprio, sono entrati in blocco. E quindi questa cosa qua ha un po' preoccupato lo Stato australiano. E quindi il ministro della difesa, Sir George Pearce, ha deciso di occuparsi di questa cosa in modo come, cioè, qualunque ministro della drastico. Difesa farebbe. Drastico. Esatto. Con la bomba atomica. No, bombe atomiche non sono state sganciate, ma con dei soldati e delle mitragliatrici. Quanta poca fantasia, veramente. La risolviamo. Il generale Meredith è andato lì con cioè una coppia di mitraglieri e 2 fucili Lewis automatici e 10.000 cartucce. Ora, pensate, 10.000 cartucce negli anni 30. Ho capito, ma per 20.000 emu già hai sbagliato un attimo il conto. Esatto. Cioè, stiamo parlando di una certa... Ci credo e perdi. E infatti, e loro erano convinti, hanno detto sì, vabbè, andiamo lì, gli spariamo una raffica e ne facciamo fuori una fraccata. Invece no. E invece no, perché hanno scoperto che questi emu erano corazzati, essere molto veloci, erano estremamente resistenti, al punto tale che questo generale commentò: se avessimo una divisione militare con la resistenza a proiettili di questi uccelli, saremmo capaci di confrontarci con ogni esercito del mondo. Possono affrontare le pallottole con la robustezza di un carro armato. Sono come degli Zulu che non possono essere arrestati nemmeno dai proiettili a espansione. Vabbè. Che tamarro. E tra l'altro, quando hanno trovato questi emu vicino a una diga, si sono messi a sparare e le armi si sono inceppate, quindi hanno dovuto anche aspettare del tempo prima di riprendere degli altri fucili, quindi ulteriori costi che si andavano ad aggiungere. E oltretutto non hanno pensato a domesticarli. Non erano addomesticabili. Sentiamo la fine della storia. Il generale Meredith disse così: i sogni dei mitraglieri di sparare raffiche sulle fitte dei massi dei mu sono stati dissolti. Il comando nemico ha evidentemente ordinato l'uso di tecniche di guerriglia. Cosa? E il suo ampio e disorganizzato esercito si è immediatamente diviso in un innumerevole numero di piccole unità, rendendo l'uso dell'equipaggiamento militare inefficace. Un esercito umiliato viene costretto quindi a ritirarsi dal campo di battaglia dopo 4 mesi, dopo quasi un mese. Vabbè, ma questi E quindi il body count finale è stato di 986 emu uccisi, con 9860 proiettili. Tutti li hanno usati. Cioè, praticamente hanno usato 10 proiettili per ogni emu. Vabbè, ma che idioti, comunque, lo ma posso e quindi, dire. Allora, la guerra l'hanno persa. La guerra gli emu sono ancora lì? Che tu sappia. Allora, gli emu in realtà la popolazione è stata drasticamente ridotta poi in seguito perché il governo si è reso conto che era molto più semplice dare delle ricompense a chi riusciva a cacciare questi emu. Certo. E quindi poi hanno lasciato fare, diciamo, ai cittadini. Però, sì. Però abbiamo la guerra persa contro gli emu. Ma gli australiani proprio, cioè. Sono quelli che hanno i soldati con i pantaloncini corti. Pantaloncini corti. Generale Pierce che non sarà più rappresentato il cappello del Gran Mogol da nessuna parte. No, vabbè. E quindi solidarietà agli emu. Solidarietà agli emu, sì. Assolutamente sì. Stiamo dalla parte tutti dotarsi di un emu da corazzato, cioè in garage. A Montemorello ce n'è alcuni. Sì. Non in stanno liberi, in un recinto. In un recinto? Sì. Bah, guarda, per i tagli dei costi delle vetture della polizia, possiamo dirgli. Certo. Cosa mangiano gli emu? Cosa mangiano gli emu? Chi lo sa? Australiani. Australiani. Pallottole. Allora senti, ma ci sentiamo lunedì prossimo? Assolutamente sì. Anche perché è un impegno, sappilo. Cioè lunedì prossimo ci sarà la penultima. Penultima della stagione 7 del primo nel conteggio. Allora, sarà proprio la penultima e poi l'ultima sarà la settimana successiva, proprio si chiuderà tipo l'ultima scena. Ok. Si chiuderà proprio nozioni inutili per un po' almeno. Va bene, allora ti ringraziamo anche. Grazie per questa settimana. Wombat Wombat, tanto rimani qui con noi, non è che vai via. Assolutamente no. Ci cosa facciamo presente adesso? Adesso un pezzo. Grazie. Mettiamo un po' di musichetta, che oggi in effetti ce n'è stata un po' poco. Bravo. Peraltro di un gruppo che questo sabato suonerà in polveriera in occasione della serata Ur Suoni, okay, che è un'etichetta. E in questo caso ci andiamo a sentire gli Elettro Capra con la mazurka della rivoltella. Pistola. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. E a Maldonado non si guarda in bocca. L'avete riconosciuta? Obiettivamente la migliore rubrica. Ti sentiamo, ti sentiamo. Allora voglio volume perché sono carichissimo, amici. Ma mi conterrò come un motore vuoto turbo potenziato al 30%. Al 30? non lo so. Perché? Perché? No, via. Scusate, Eccomi. Ero io che non mi sentivo. Ah. Di Formula 1 oggi. Chi lo sa? C'è il cavo del microfono rotto. Bravo. Vai, prendi il giallo. Il giallo. Allora, è importante. Io so che si può sentire il rumore del nuovo motore. O sbaglio? Sbagli, amico mio. Porca miseria. Sbagli, amico mio. Io voglio il mio tempo e la mia predisposizione d'animo giusta per gli annunci del caso. Vai. E in questo caso non facciamo altro che commemorare un po' di eroi per un giorno. Ok. Non parliamo di tutto ciò di cui avremmo voluto parlare, lo faremo lunedì prossimo. Questa volta parliamo di quel numero glorioso di piloti, 23, che nella loro carriera hanno vinto un solo Gran Premio. A loro è dedicata questa puntata. Un minuto di silenzio. No, li citiamo. Innes Ireland nel 1961, Giancarlo Baghetti nel 1961, Peter Gettin a Monza nel 1971, François Crever nel 1971, un altro italiano, Vittorio Brambilla nel 1975, Brambilla. Gunnar Nilsson a Zolder nel 1977, Alessandro Nannini a Suzuka nel 1989. Arriviamo poi in tempi moderni. Piloti che almeno io ho visto tutti correre, come Jean Alesi, a Montreal, certo. Grande Jean Alesi, grandissimo Jean Alesi, grandissimo. Fra l'altro il figlio di Jean Alesi sta a correre, Van Aert va forte, occhio al figlio di Jean Alesi, mi sa che c'ha tipo 15 anni. E comunque, a Montreal nel 1955, unica vittoria in maglia rossa della Ferrari, in Ferrari del nostro Jean Alesi. E poi l'anno dopo, nel 1996, a Monaco, Olivier Panis, in una gara super rocambolesca in cui vinse. Mi manca Ma ti ricordi nel 2004 Jarno Trulli? Trulli, certo. Jarno Trulli. Che nel 2004 vinse la sua unica gara, anche lui nel circuito forse più importante della storia della Formula 1. Bravo. Bravo! A Monaco. E poi un altro di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, Robert Kubica, il polacco. Il pilota che poi fece l'incidente nel rally, adesso era in lizza per tornare o meno nella Williams contro il giovane russo. Abbiamo seguito questa telenovela, Sirotkin. Vinse una volta nel 2008, sua unica vittoria quando era ancora una giovane promessa. E correva con? Non me lo ricordo, Madonna, speriamo non mi chiedano proprio Kubica perché è l'unico di tutti che non mi ricordo. Porca puttana. Ma mi ricordo chi vinse nel 2012, ultimo del nostro elenco, con l'auto di cui abbiamo anche la musica, sì. Con l'auto di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate, la Williams, che non vinceva da ben 7 anni, dal 2005 col allora grande pilota, ancora grande pilota Montoya, che nel 2012 tornò alla vittoria a Barcellona col nostro grande Pastor Maldonado. Sì, ho cercato. Pubblico invisibile. Che è il personaggio a cui è intitolata la nostra rubrica. A Maldonado non si guarda in bocca. Da allora, purtroppo, non si sono più visti piloti di un certo livello come lui vincere un Gran Premio. Anche a culo come andò quello. Peccato. Lunga vita a Pastor Maldonado. E ci sentiamo con le notizie succose la prossima settimana. Non vediamo l'ora. A questo punto, prima di salutarci, metterei un ultimo pezzo. Certo. per smorzare, che è sempre del secondo gruppo che suonerà alla serata di Ursuoni. In questo caso si chiamano Il Cloro e il pezzo è Ufo Ufo. Eccoci qua, in conclusione di questa 54esima puntata di Fuoco alle Polveri, qui su Radio Wombat. È un vero peccato, ma nel senso torniamo la radio presto, continua. Rimanete lì, rimanete lì perché ci sono gli eventi del Wombat. Gli eventi del Wombat, sì, subito tra poco. A seguire. A seguire, Wombat eventi. Cosa succede nella nostra città questa settimana? Niente, noi ci sentiamo lunedì prossimo, 16.30, più o meno. Ultimo ricordino dell'appuntamento del 3-4 marzo. Vi faremo una festa della radio. Tanto la festa della radio, sì, il sabato presso il CSA Next Emerson, la domenica presso la Polveriera, con spettacoli, workshop, radio, ospiti da tutta Italia. Per maggiori informazioni guardate sul nostro sito, ci sarà tutto. Esattamente, wombat.noblogs.net.org, scusate. Sorry. E allora Wombat Wombat, a settimana prossima. Ciao ciao. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Wombat.